Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però ha la faccia mia, ha la faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello, sì questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia, o forse gelosia, forse gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco, cerco nel riflesso una certezza che non c'è, e anche se mi sposto, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e quanto sono brutto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia quando vado via, quando vado via. Oggi sono perso, non mi riconosco, cerco nel riflesso una certezza che non c'è, e anche se mi sposto, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e poi come mi resto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. E ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino nel televisore spento, quindi scusa se ti sembro una specie di tormento, è da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto. E ti vedo molto spesso, oggi sono persi dentro al cesso, non mi riconosco, sul finestrino cerco nel riflesso una certezza che non c'è, se ti sembro, e anche se mi sposto di tormento, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che hai sbagliato tutto, io quanto sei brutto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Da che parte stai?